Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus superati in Italia i 20.000 malati, preoccupazione per il sud, sospesi i collegamenti con la Sicilia. Intanto in Consiglio dei Ministri la manovra da 25 miliardi con aiuti a medici, lavoratori, famiglie e imprese. Nuovo tonfo intanto per le borse europee, Milano perde il 9,5%, la Fed taglia i tassi, in Cina crollo della produzione a gennaio, meno 15%. E il contagio cresce in Europa verso l'isolamento delle frontiere esterne, dice il presidente francese Macron. In Francia quasi 5.000 casi, 8.000 in Spagna, a New York chiusi cinema e ristoranti. Israele, incarico di governo a Benny Gantz, l'ex capo di Stato Maggiore riparte da dove si era fermato Netanyahu. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese, questo è quanto si attende dal Consiglio dei Ministri di oggi, con una misura tra i 22 e i 25 miliardi di euro. Ne parleremo tra poco, prima però la cronaca con le ultime notizie che per quanto riguarda l'Italia ci portano soprattutto al sud. Il Ministero dei Trasporti sospende i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia, uno stop concordato con il governatore Musumeci, preoccupato per i rientri di siciliani dalle altre regioni italiane. La stessa misura da oggi è in vigore anche per la Sardegna. In tutta Italia si moltiplicano le nuove iniziative per contrastare la diffusione del virus. In Emilia-Romagna, il comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo nel bolognese da oggi fino al 3 aprile sono diventati zona rossa, stesso provvedimento anche in altri 4 comuni campani, Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, tutti nel Salernitano. A Roma invece da oggi è in funzione il Covid 2 Hospital allestito dal Policlinico Gemelli e si sta lavorando anche per aprire altre 2 strutture, grazie alle quali nella capitale si arriverà a 1.500 posti letto dedicati ai contagiati. I sindacati dei medici intanto fanno sapere che hanno superato quota 2.000 gli operatori sanitari positivi al coronavirus. Su richiesta della Farnesina, infine, Alitalia sta iniziando ad organizzare una serie di voli speciali per permettere il rimpatrio di migliaia di italiani bloccati all'estero. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'emergenza sanitaria concreta si concentra soprattutto in Lombardia, dove ci sono più di 13.000 casi, in particolare nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, ma poi anche Milano, Lodi, Piacenza. E allora sentiamo come si sta lavorando soprattutto in regione Lombardia per cercare di aumentare i posti letto. Il grande progetto di un ospedale con 500 letti di terapia intensiva nella Fiera di Milano si farà, e prova ne è l'arrivo dell'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. A dirlo è il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. A ostacolare il progetto finora la difficoltà dichiarata dalla Protezione Civile di reperire la strumentazione sanitaria necessaria sul mercato internazionale. La Lombardia si trova infatti in estrema difficoltà, concentrando oltre la metà dei 2.000 decessi registrati finora in Europa. Bergamo e Brescia i centri più colpiti, e si teme per Milano, che al momento resta ancora al riparo. I dati ufficiali di crescita del contagio di ieri a Milano, sottolinea il vicepresidente Sala, sono in linea con i giorni precedenti. Il virus non sta sfondando, ma è fondamentale che non sfondi. Per questo vanno rispettate le regole. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, per quanto riguarda medici e infermiere, lo sappiamo, sono giorni, ormai settimane, di turni di lavoro massacranti, aggravati dalla carenza di dispositivi di sicurezza come le mascherine, che ci sono ma sono in numero appena sufficiente. Ne parleremo tra l'altro nella seconda parte di Effetto Giorno con il presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Ma sentiamo Mariella De Astis, dirigente nazionale del sindacato Nursing Up, al microfono di Katia Caramelli, raccontare come sia complicato lavorare in queste condizioni. Gli operatori sanitari sono stremati da turni massacranti, perché una delle decisioni che hanno preso i nostri governanti è quello di derogare alle norme che regolamentano gli orari di lavoro. Pertanto un infermiere può dover lavorare anche 14-16 ore continuative in una situazione drammatica, con uno stress psicofisico notevole, senza poter bere, ristorarsi anche 5 minuti, perché la cosa più importante, mancano i dispositivi di sicurezza. E quindi per poter risparmiare sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, che sono le mascherine, visiere, i camici, eccetera, evitano di doverseli togliere per poter bere o ristorarsi in qualche modo, perché poi quei dispositivi vanno sostituiti. Quindi al fine di risparmiare sono costretti appunto a lavorare tutte queste ore senza poter avere un minimo di ristoro. Quindi in sostanza avete capito bene, non potendosi togliere la mascherina perché non si può riutilizzare, in quel caso andrebbe gettata via, e non essendocene a disposizione più di una al giorno, ecco che medici e infermieri sono costretti a conviverci tutto il giorno. Ne parleremo, ripeto, nella seconda parte di Effetto Giorno. Cercheremo di capire cosa si sta facendo il sistema produttivo italiano, il governo, la protezione civile per aumentare l'approvvigionamento. E adesso, come detto, il Consiglio dei Ministri di oggi era convocato per questa mattina, ma c'è evidentemente ancora qualcosa da mettere a punto. Arriva il decreto Cura Italia, un corposo pacchetto di misure a sostegno dell'economia, aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, ma anche per il personale sanitario, per un valore di 25 miliardi di euro. Nella bozza cassa integrazione in deroga, allargata a tutti i settori, indennità una tantum di 600 euro a marzo per gli autonomi, rinvio del pagamento delle tasse, congedo a metà stipendio per genitori e permessi speciali, e poi ancora sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, rinvio dei pagamenti dei contributi INPS per le colf, stop al fisco fino al 31 marzo per le aziende più colpite, mentre un bonus di 100 euro andrà a favore dei lavoratori che, nonostante il rischio contagio, devono andare a lavorare in sede. Nella bozza anche un piano straordinario per aumentare i posti di terapia intensiva in Lombardia, Trento e Bolzano, anche ricorrendo ad accordi con strutture private accreditate e non, e fondi per l'acquisto di guanti e mascherine. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi intanto è una giornata nera anche per le borse europee, l'ennesima. Milano cede il 9,3% in questo momento, Francoforte cede l'8,3%, e dopo il taglio dei tassi a parte della Federal Reserve, oggi anche la banca centrale cinese ha immesso quasi 15 miliardi di dollari sul mercato, mentre però arrivano i primi dati sull'andamento della produzione cinese. A gennaio e febbraio il calo è stato del 15%. Pesante effetto coronavirus sull'economia cinese nei primi due mesi dell'anno. Un calo medio in tutto il paese del 13,5% nella produzione industriale e del 20% nelle vendite al dettaglio. Ma il virus in Cina è quasi sconfitto e fabbriche e negozi riaprono mentre chiudono nel resto del mondo. Ripartono in Cina la Toyota e 31 stabilimenti Volkswagen. Mantenere la produzione in Europa, fa sapere il colosso tedesco, è invece sempre più difficile. Già chiusi i siti produttivi in Italia e Spagna. E chiudono in Italia i sei principali stabilimenti di Fiat Chrysler, da Mirafiori a Pomigliano, Cassino e Melfi. Almeno 30.000 lavoratori coinvolti fino al 27 marzo. In Italia chiude a marzo anche Fincantieri, 8 impianti per 9.000 dipendenti. Intanto le grandi compagnie aeree europee riorganizzano aprile e maggio con tagli di voli del 70-90%, e secondo EasyJet molte compagnie potrebbero non sopravvivere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora cerchiamo di darvi anche qualche buona notizia nella cronaca sul coronavirus. In Cina prosegue il rallentamento dell'epidemia, solo 4 casi ieri a Wuhan. Calo anche in Corea del Sud, 74 casi, siamo ai minimi in questo caso da 3 settimane. E ora facciamo il punto anche su vaccini e farmaci su cui si sta lavorando per combattere Covid-19. Credo che vedremo prima una terapia più specifica rispetto ad un vaccino. A dirlo Walter Ricciardi, membro dell'OMS. Al momento sono almeno 35 in tutto il mondo i progetti di un vaccino in campo, tutti ancora in fase iniziale. Ultima in ordine di tempo ad annunciare il test di un vaccino sui topi, l'Australia. Intanto l'attenzione è rivolta su quello che accade nei reparti d'ospedale. Se al momento i farmaci utilizzati contro il Covid-19 sono quelli sintetizzati per curare altre malattie come l'artrite o l'AIDS, un medicinale studiato appositamente per contrastare il coronavirus potrebbe arrivare dall'Olanda. Lo rivela una ricerca pubblicata da un gruppo di scienziati dell'Università di Utrecht. Si tratta infatti di un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere la proteina che il virus utilizza per aggredire le cellule respiratorie umane. Il problema è che serviranno mesi prima che il farmaco sia disponibile, anche se a detta degli stessi studiosi di Utrecht, la sua realizzazione richiederebbe meno tempo di quello necessario per un vaccino. Lascia infine sperare la possibilità di utilizzare il plasma di persone guarite dal coronavirus con alti livelli di anticorpi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che ci porta all'estero. In Israele il presidente Rivlin ha affidato l'incarico di formare il governo al leader di Blu Bianco, Benny Gantz, che ha accettato. Farò, ha detto Gantz, ogni sforzo per costituire nel giro di alcuni giorni un governo nazionale patriottico e il più largo possibile al servizio dell'intera popolazione di Israele. E siamo allo sport e a quel che resta dello sport. Carlo Genta, buongiorno. Ciao Alessio. Ben ritrovato. Allora, sono ore di attesa, sì, soprattutto per il calcio delle nazionali. Beh, no? Alessio, lo sport è un momento dell'attesa, ma delle decisioni, perché su un futuro che ancora, di cui ancora non vediamo esattamente le linee, come è normale che sia, però un futuro che bisogna cominciare a disegnare da ora. Domani l'UEFA deciderà con ogni probabilità lo spostamento del campionato europeo, quando ancora non è chiaro se rinvio totale di un anno oppure ipotesi novembre-dicembre, quindi in una stagione che dovrebbe essere completamente ridisegnata. Si parla anche di possibilità di chiusura della stagione italiana. Ha parlato questa mattina Gravina, presidente federale, che ha detto: in questo momento non sappiamo nulla, quindi vale tutto, potremmo chiudere e finire la stagione con le partite normali, giocando a ritmo molto intenso, partendo da quando non si sa, ma l'ipotesi del 3 aprile è esageratamente ottimistica, come possiamo ben immaginare, e valgono l'ipotesi dei play-off e play-out. Insomma, in questo momento vale davvero tutto. Si tratta di capire che cosa non ci sarà certamente, con ogni probabilità, l'europeo. Tanto curioso notare, come tu parlavi prima della Cina, sport chiuso in tutto il mondo, non si gareggia, non si compete praticamente in tutto il mondo, salvo alcune aree. Tranne forse in Cina. In Cina, sì. In Cina c'è stato, in Cina, ma anche a Tokyo, ci sono stati dei meeting di atletica indoor, quindi lì l'attività riprende. È chiaro che il grosso tema sarà quello delle Olimpiadi, ma è ancora estremamente presto per parlare di quello. Grazie Carlo. Ti ritroviamo naturalmente con tutti questi approfondimenti, a tutti convocati all'appuntamento dopo il GR delle 14. E in queste ore si moltiplicano, in questi giorni, a tutte le ore del giorno, tra l'altro, gli appuntamenti alle finestre e ai balconi degli italiani per condividere l'isolamento attraverso le canzoni. Cerco un po' d'amore in giardino, tra l'oleandro e la obà, come facevo da bambino. E questa è solo una delle tante registrazioni che sono state fatte ai balconi, alle finestre in questi giorni. Ieri sera alle 21 Italia illuminata con i telefonini, proprio sempre per sottolineare questa volontà di condividere l'isolamento. Musica che, e questo è un annuncio, tornerà protagonista alla radio venerdì, quando per la prima volta nella storia di tutte le radio succederà questo: tutte le radio andranno contemporaneamente in diffusione con tre canzoni e più l'inno di Mameli, tre canzoni che rappresentano il patrimonio musicale italiano nazionale e più l'inno di Mameli. Naturalmente anche Radio 24 parteciperà a questa iniziativa che si intitola La Radio per l'Italia, ve lo ricordo, venerdì alle 11. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno. Ci fermiamo, facciamo un piccolo break. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo dalla questione delle mascherine. Cercheremo di capire con il presidente di Confindustria Dispositivi Medici cosa si sta facendo per garantire l'approvvigionamento e forse anche di capire che cosa in passato non è stato fatto per non ritrovarsi adesso in questa situazione. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai Assicurazioni, i numeri uno nell'innovazione, come l'app con cui chiami carro attrezzi e soccorsi. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Nel 2016 sono stato condannato per omicidio. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. IBM Public Cloud. Innovazione, sicurezza, affidabilità e facilità d'uso. Click Cloud. IBM Cloud. Prova subito la versione Lite e per tutto il tempo che vuoi accedi a 40 servizi gratuiti. Ma ne hai 190 con l'upgrade e oggi IBM ti accredita $200. Sviluppa con IBM Public Cloud. ibm.com/cloud-pubblico. One Express. Il pallet espresso. Vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di lavori si registrano code sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallate e Grotta Minarda in entrambe le direzioni. Attenzione poi a un incendio segnalato sulla 14 Bologna-Taranto tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est. È tutto per il momento, ci risentiamo tra mezz'ora. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, stop ai collegamenti con la Sicilia. In Italia superati i 20.000 malati. Al Consiglio dei Ministri la manovra da 22 miliardi contro l'emergenza. La sfida delle mascherine, 2 milioni in arrivo, dice Borrelli. La Liguria intanto requisisce quelle di farmaci e grossisti. Stiamo cercando di convertire le produzioni, dice Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Tra poco effetto giorno. Il contagio intanto cresce in Europa verso l'isolamento delle frontiere esterne, dice il presidente francese Macron. In Germania quasi 5.000 contagi, 8.000 in Spagna, New York chiusi cinema e ristoranti. Intanto nuovo pesante tonfo per le borse europee, Milano perde il 9%, la Fed taglia i tassi, in Cina crollo della produzione a gennaio, meno 15%. In Israele l'incarico a formare il governo va a Benny Gantz, l'ex capo di Stato Maggiore riparte da dove si era fermato Netanyahu. Minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Avete appena sentito i titoli principali di oggi, vi abbiamo inserito anche la questione delle mascherine, la scarsità di mascherine, l'approvvigionamento è difficoltoso, c'è stata anche una polemica qualche ora fa tra il assessore al welfare della Lombardia Gallera e la Protezione Civile per un approvvigionamento di mascherine non ritenute idonee. Abbiamo sentito nella prima parte di Effetto Giorno anche l'intervista di una rappresentante sindacale degli infermieri che diceva costretti a tenerle per tutto il giorno senza toglierle, perché una volta tolta la mascherina va buttata via, ce ne vuole un'altra, ma non ce ne sono. È con noi Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, buongiorno. Buongiorno a lei Maurizio e buongiorno agli ascoltatori. Grazie per essere con noi Boggetti. Allora, intanto così, proprio andando subito al sodo, no? L'Italia produce o non produce? Abbiamo capito che se ne producono, ma non tante, sicuramente non abbastanza. Quante ne produciamo, diciamo, in un regime ordinario, non adesso, normalmente? Ma in un regime ordinario noi, la nostra produzione di mascherine è praticamente quasi assente, nel senso che le mascherine sono uno di quei prodotti dispositivi medici dove l'Italia non riesce assolutamente a fare la differenza. D'altronde questi sono dispositivi medici che la pubblica amministrazione acquista principalmente al prezzo. L'Italia è conosciuta nel mondo per avere un'industria fatta di qualità e di tecnologia e noi non possiamo assolutamente competere con le grandi industrie produttrici straniere, quindi è evidente che l'Italia non è un produttore di questa tipologia di prodotti. Però lei ha anche detto che effettivamente nel nostro paese c'è stata, forse ci sarebbe ancora, c'è una produzione, c'è un numero di aziende che producono, se ho capito bene, ancora magari molto limitato, però prodotti di qualità alta che poi non vengono acquistati magari dal sistema sanitario nazionale. Mi dica se ho capito bene o se ho sbagliato. Proprio per la questione del prezzo, no? Un prezzo troppo elevato per prodotti di alta qualità, si preferisce approvvigionarci risparmiando con prodotti magari di più scarsa qualità e comunque all'estero. Allora, sì, diciamo che è un po' più complesso di così, se mi posso permettere cercherò per amore di sintesi della trasmissione anche di essere chiaro. Innanzitutto il mondo dei dispositivi medici è un mondo costituito da oltre 1,5 milioni di prodotti e quindi di tecnologie molto sofisticate e di prodotti invece che hanno un contenuto tecnologico più improntato verso la produzione di massa che non verso l'alta tecnologia. Quindi indubbiamente il sistema sanitario nazionale acquisisce prodotti italiani, è chiaro che non acquisisce prodotti italiani come quelli che possono essere le mascherine, dove il fattore prezzo è determinante. E purtroppo quello che lei dice è vero, nel senso che negli ultimi tempi, si sta parlando almeno degli ultimi 10 anni, questo governo e i precedenti si sono mossi molto sul discorso della spending review, sul discorso della centralizzazione degli acquisti, ed è chiaro che il nostro tessuto industriale, che è fatto da piccole e medie industrie che hanno una fortissima potenzialità, non riescono ad avere la dimensione né economica né produttiva per far fronte ad una gara regionale. Questo porta ovviamente... Ma allora, scusi Boggetti, ma quelle che produciamo dove le vendiamo allora? Noi vendiamo principalmente all'estero. Adesso in questo momento credo che il punto fondamentale del discorso delle mascherine è che noi abbiamo fatto circa 20 giorni fa un accordo per mettere a sistema le nostre produzioni e cercare di riconvertirle. Quindi noi oggi abbiamo parecchi industriali che hanno dato la disponibilità delle loro industrie che fanno prodotti di altra tipologia per incominciare a fare le mascherine. Tanto è vero che notizia di questa mattina, noi stiamo lavorando anche a stretto contatto con l'Istituto Superiore di Sanità per creare delle procedure accelerate di immissione in commercio di questi prodotti, che vi ricordo sono comunque prodotti che necessitano di una serie di sperimentazioni e un aspetto regolatorio molto importante per la sicurezza del paziente e per la sicurezza dell'operatore, in modo tale da fare una sorta di scheda di checklist che aiuti questi nuovi produttori a rendere disponibile per il nostro paese le mascherine secondo i criteri di sicurezza e di tecnologicamente appropriati. Senta Boggetti, ancora una curiosità però, prima di chiedere a che livello questo sforzo che si sta facendo adesso di riconvertire anche una parte delle aziende italiane che magari non sono direttamente impegnate nella produzione di dispositivi medici, ma adesso lo diverranno, se ci riesce a dare anche un ordine di grandezza per far fronte a questa produzione qua. Però tornando al discorso che ci faceva prima, che è molto interessante, cioè lei ha detto noi grosso modo esportiamo, ma in quali paesi, per capire quali sono i paesi che assorbono la produzione italiana di questo tipo di dispositivi, quando invece, come ricordava lei, il sistema sanitario nazionale, le gare regionali, vuoi per un motivo vuoi per l'altro, finiscono per approvvigionarsi dall'estero, come è anche normale che sia in un mercato aperto. Però le nostre, chi le compra? Ma è interessante, perché comunque l'export delle nostre industrie è principalmente diretto verso Francia, Germania per quanto riguarda l'Europa, Cina e Stati Uniti per quanto riguarda il resto del mondo. Va chiarito però che il nostro il comparto delle industrie di dispositivi medici italiani non è un comparto fatto da produttori di mascherine o di guanti o di dispositivi medici, il cui valore è principalmente legato alla produzione su larga scala. Le nostre imprese sono imprese piccole e medie di altissima tecnologia. È chiaro Sì, però quanto, per darci una dimensione, quanto sono in grado di produrre le nostre imprese in regime ordinario e quanto invece lei sta misurando questo sforzo che sta facendo adesso per, come dire, riconvertire la produzione, cercare di dare una mano alle imprese italiane che possono farlo in queste ore per il paese? Cioè i due ordini di grandezza, quello ordinario e quello straordinario. Allora, quello ordinario è praticamente quasi non presente, perché come dicevo le mascherine non hanno rappresentato fino all'inizio della crisi un dispositivo medico che veniva sostanzialmente prodotto in Italia. Oggi tenga presente che ogni macchinario che produce mascherine può produrre fino a 30.000 mascherine al giorno, abbiamo circa 30-40 aziende che hanno già manifestato un interesse di poter collaborare per riconvertire le loro produzioni e quindi ogni una di queste imprese penso che possa mettere a regime dalle 4 alle 5 macchine, quindi è facilmente immaginabile fare il conto. Me lo faccia lei il conto perché mi sono perso 30-40 aziende? Si sta parlando di 30.000 mascherine per macchinario, si sta parlando di circa 30 aziende per 5 due macchinari a testa, il conto adesso è abbastanza facile farlo. Il problema però, vede, non è tanto la quantità di produzione di mascherine, perché comunque stanno arrivando anche dagli altri paesi, dalla Cina e dalla Germania, che sta ritornando a esportare nel nostro paese le mascherine. Il problema è che cosa succederà di queste imprese. Ci sono due grandi temi che ci tengo in questo breve tempo a sollevare. Cosa succederà dopo l'emergenza, immagino? Il primo è assolutamente adesso, è durante l'emergenza. Noi abbiamo chiesto un aiuto straordinario al MISE e ci aspettiamo che il MISE, che ha dato parere favorevole, si attivi nei tempi rapidi che sono quelli dell'emergenza per dare un supporto a queste imprese che stanno riconvertendo la loro produzione al di là dei numeri stessi. E secondo è poi capire cosa succederà dopo, perché queste imprese che avranno fatto sacrificio di riconvertire le loro industrie a favore del paese, se si tornerà a riacquisire con i meccanismi precedenti, è chiaro che saranno costrette a chiudere le loro produzioni. È chiaro, Boggetti, è molto chiaro quello che lei dice. Io personalmente è la prima volta che mi affaccio al mercato di questo tipo di dispositivi sanitari, però mi sembra abbastanza chiaro da quello che ha detto lei che sarebbe necessario fare uno sforzo di sistema e garantire un mercato interno, visto che la domanda, il bisogno c'è, il fabbisogno deve essere assicurato anche in situazioni non straordinarie di queste mascherine, di questi dispositivi sanitari, piuttosto che produrli di alta qualità ed esportarli, perché il sistema sanitario nazionale, per quanto rifinanziato ogni anno, viene rifinanziato meno di quanto programmato, queste sono le statistiche, i dati aggiornati. Allora allineiamo questi investimenti e consentiamoci anche la possibilità di tenere in piedi delle aziende italiane che poi nelle situazioni straordinarie garantiscono anche il fabbisogno di questi importanti dispositivi sanitari. Grazie mille per essere stato con noi, Presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Vado veloce perché abbiamo tante altre cose di cui parlare. Allora, proseguiamo nel racconto di come si stanno muovendo le aziende e anche di quello sforzo di cui parlava Boggetti, cioè di riconvertirle in corsa in queste ore. Anna Marino. Raggiunta l'intesa tra rappresentanti dei lavoratori e quelli delle imprese per gestire l'attività produttiva anche in queste settimane di emergenza, ma tutelando la salute dei dipendenti, per le aziende che continuano a produrre dopo aver messo in sicurezza i luoghi di lavoro, è cambiato il modo di lavorare, come per la bergamasca Santini, che produce abbigliamento tecnico per ciclismo e triathlon. Monica Santini, amministratore delegato. In azienda noi abbiamo preso la decisione di continuare a lavorare finché c'è possibile. Già da oltre due settimane stiamo implementando praticamente tutte le attività del decreto. Tutti i nostri lavoratori che possono lavorare in smart working, tipo i designer piuttosto che il marketing, eccetera, lo stanno facendo. L'unico presidio di una persona per area a rotazione. E come molte aziende del tessile e non solo, dalla piemontese Gruppo Miroglio settore abbigliamento alla multinazionale Giglio Group settore e-commerce, mentre il mercato interno è quasi fermo e continua solo l'export a basso regime, Santini si è attivata per provvedere alla produzione di mascherine. Ci è stato chiesto di verificare internamente la possibilità di convertire una parte della produzione in mascherine, i tessuti che possono essere considerati adeguati per la produzione di mascherine. Noi ci siamo messi a disposizione per fare appunto la confezione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 28 minuti, avevamo attivato anche un'intervista con il professor Pierluigi Lopalco, originario di Genova all'Università di Pisa, diventato consulente per la Regione Puglia per aprire una finestra sul sud, però al momento non riusciamo a stabilire il collegamento, naturalmente stanno tutti lavorando, sono tutti in prima linea, vediamo se nel corso della puntata magari riusciremo a sentirlo. La notizia di oggi è che la Sicilia ha interrotto i collegamenti, è una decisione del Ministro dei Trasporti De Micheli, dalla Sicilia verso l'Italia, andata e ritorno, proprio per evitare che ci siano ulteriori arrivi e ulteriori carichi per il sistema sanitario siciliano. Al momento l'emergenza è concentrata a livello regionale, ve lo ricordo ancora una volta, in Lombardia, poi c'è la Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte, le Marche hanno una grossa emergenza con dati paragonabili a quelli del Veneto, ma con una regione molto più piccola. Poi ci sono Toscana, Liguria, Campania. La Campania forse in questo momento è la regione dove i numeri si sono manifestati maggiormente. Puglia e Sicilia, Calabria al momento sembrano piuttosto tranquilli. Però ricordiamo quello che ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro ieri: ci aspettiamo proprio dal mezzogiorno che possa esserci un incremento in questi giorni. 13:29 minuti, facciamo un break, torniamo tra poco. 349-238-6666. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Il Policlinico di Milano ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. Il Policlinico di Milano, con i suoi medici, anestesisti, infermieri, tecnici e biologi, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Sei un imprenditore? Con la tua ambizione e la tua visione non puoi star fermo. Da noi fare impresa è sempre difficile. Per questo noi italiani abbiamo una marcia in più. Gruppo Finservice ti offre a titolo gratuito la consulenza telefonica dei suoi oltre 300 consulenti. Perché è proprio in questi momenti che bisogna guardare oltre. Cogliendo tutti i contributi che ti spettano. Chiama Gruppo Finservice. 800 94 24 24. 800 94 24 24. Chiama Gruppo Finservice. Leader della finanza agevolata. Da Conad fino al 10 maggio letture e divertimento si intrecciano. Arriva la collezione di libri per ragazzi, scrittori di classe, diario di una schiappa. 6 avventure all'insegna della resilienza con Greg, la schiappa più famosa del mondo. Una buona occasione per venire a trovarci e scoprire che una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. Sommerso da fogli presenze incomprensibili senza mai sapere chi ci sarà al lavoro domani. Dipendenti in Cloud è il software per la gestione dei collaboratori semplice e veloce. Con Dipendenti in Cloud, foglio presenze e piano ferie sono sempre aggiornati. Hai a disposizione storico buste paga e documentazione dei collaboratori e il consulente del lavoro accede in autonomia facendoti risparmiare un mucchio di tempo. Registrati su dipendentiincloud.it. Ha un prezzo piccolo piccolo e in più è Team System. Provalo gratis e semplificati la vita. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Borse in diretta. Le crescenti ricadute economiche della pandemia di coronavirus affondano le borse europee, che vivono un nuovo lunedì nero nonostante la manovra espansiva della Federal Reserve. In attesa delle decisioni dell'Eurogruppo, gli investitori preferiscono mantenersi liquidi, visto l'elevato grado di incertezza, e spingono al ribasso anche i corsi dei tradizionali beni rifugio, come l'oro e i metalli preziosi. A Piazza Affari il FTSE MIB perde poco meno del 10%, in linea con gli altri principali mercati. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Fiat Chrysler è tra i peggiori, meno 17,8%, dopo l'annuncio della chiusura degli impianti in Europa fino al 27 marzo. Male anche le banche, tra cui BPER perde il 15% e Unicredit il 13%, mentre Dia Soaring limita i danni a meno 2,5%. La società sta sviluppando un test rapido per l'individuazione del coronavirus. Paolo Paronetto, Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rocchetta, giorno dopo giorno, mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea. Tiscali ti augura una buona connessione. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga in promo online a soli 25,95 euro al mese con chiamata incluse, modem super wifi e attivazione gratis. Offerta soggetta a limiti geografici. Vai su tiscali.it o chiama il 130. Tiscali, on life. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre? Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. Ascolta La 7, la programmazione televisiva della 7 in modalità solo audio. I nostri podcast sono disponibili anche su Spotify, iTunes, Alexa e Google Home. I podcast di La 7, ovunque con te. perfetto giorno. Queste le notizie di oggi. Aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese. In Consiglio dei Ministri la manovra da 22 miliardi contro l'emergenza coronavirus. Superati i 20.000 malati in Italia, preoccupazione per il Sud, sospesi i collegamenti con la Sicilia. Il contagio cresce in Europa verso l'isolamento delle frontiere esterne, dice Macron. In Germania quasi 5.000 casi, 8.000 in Spagna. Nuovo pesante tonfo per le borse europee. Milano in questo momento cede il più del 10%. La Fed taglia i tassi. In Cina il crollo della produzione a gennaio è stato del 15%. Israele, incarico di governo a Benny Gantz, l'ex capo di Stato Maggiore riparte da dove si era fermato Netanyahu. :35 Ben ritrovati, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook del programma. C'è chi chiede, ma non si può chiudere la borsa? Domanda che è stata già fatta in questi giorni. Con un tonfo come quello di oggi, l'ennesimo tonfo, il secondo forse più pesante, meno 10% in questo momento Piazza Affari. Tecnicamente credo di sì, lascio la valutazione agli esperti che se ne intendono. Sicuramente ci sono pochi casi in precedenza in cui ciò è stato fatto. Sulla questione delle mascherine invece, tanti messaggi, ma insomma lo scetticismo va per la maggiore. Leggo solo questa ascoltatrice che dice: ma in Italia noi non produciamo mascherine. E invece no, abbiamo appena sentito che le produciamo in una quantità non importante, mascherine e altri dispositivi sanitari di alta qualità che hanno un costo magari maggiore di quello che può essere il costo di materiale di importazione. Noi queste mascherine le esportiamo in Francia e in Germania. Il sistema sanitario nazionale, che non si venga a dire che non ci sono stati tagli in questi anni, perché ci sono stati sicuramente dei ridimensionamenti del finanziamento aggiuntivo previsto con l'invecchiamento della popolazione, ma non siamo mai al passo. Il sistema sanitario nazionale, le regioni fanno delle gare, comprano legittimamente questo materiale dove costa meno all'estero. Fatto sta che il mercato in Italia si è atrofizzato, rischia di atrofizzarsi ancora di più, e in questo momento queste aziende chiedono giustamente che dopo l'emergenza si riapra una filiera interna. È il momento del punto del vice direttore del Sole, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Il virus ha fatto scoppiare le bolle della finanza ed è per questo che le borse tracollano nonostante gli annunci dei piani di liquidità fatti dalle banche centrali. C'era un mondo di fatto indebitato con le banche che aveva investito nelle borse contando sul guadagno certo in tempi di tassi bassi. 14.000 miliardi di dollari di prestiti a leva praticamente senza garanzia solo negli Stati Uniti. Ora che i mercati cambiano segno perché la crisi del coronavirus attacca di fatto l'economia vera, quella reale, delle fabbriche e delle produzioni, quella massa di investimenti viene dismessa, ceduta proprio per rimborsare i prestiti avuti dalle banche e per cambiare strategia. Lo fanno poi tutti e contemporaneamente, in modo automatico. Per questo l'effetto diventa devastante sui listini. Ciò che serve ora è mantenere da parte delle banche centrali un intervento coordinato di pompaggio della liquidità per non far tracollare il mercato. La BCE ha annunciato un intervento di 120 miliardi di euro, la Fed di 700 miliardi di dollari, la banca cinese sta facendo lo stesso. Non basta, bisognerà aumentare le dosi, probabilmente per placare i mercati. Ma la strada è quella giusta. Ora anche le politiche fiscali dell'Unione Europea e del G7 probabilmente verranno coordinate per evitare che la crisi si propaghi. Quello che non si era capito con la Lehman Brothers, almeno stavolta si è capito con il virus.